We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. E buongiorno e buona settimana a Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao Alessio, buongiorno. Era lei, fantastica. Un discorso, io mi ero messa comoda, sì. Le 8 ore di Londra, te le 9 vista nostre proprio ore, tutta. Tazza di tè, pensavo un mega discorso, invece 3 minuti e 49. Vedi, ma il parole pragmatismo veramente britannico. Sì, e qui ci dice, queste erano proprio le ultime parole, torneremo a poter vedere, abbracciare le nostre famiglie, i nostri amici e torneremo a poterci incontrare. Ovviamente questa immagine della regina, tra l'altro poi spiegano i giornali che è stato dal punto di vista organizzativo molto complicato filmare sì. questo discorso, perché naturalmente nessuno poteva avvicinarsi, bisognava anche chi l'ha truccata ha dovuto naturalmente seguire dei protocolli molto rigidi e questo naturalmente la sua foto con questo vestito verde speranza, credo non a caso, e lei veramente bellissima, io 90 anni non glieli darei assolutamente, e ha fatto questo discorso che oggi è su tutte le prime pagine dei sì. giornali britannici, dove però naturalmente c'è anche la notizia di Boris Johnson che siccome ha avuto una febbre abbastanza alta è stato ricoverato in ospedale, si attendono notizie a questo punto i briefing. Come sono i toni dei giornali? Sono allarmati? O no, insomma, sulle condizioni di Johnson? Ma siccome lui stesso ha detto è una precauzione, gli credono in toto e per ora insomma è tutto affidato al suo vice Rab, che comunque continuerà a fare i vari briefing per aggiornare insomma i sudditi. Poi c'è tutto il tema delle multe e delle persone che non hanno rispettato ieri a Londra c'erano 18 gradi che insomma per loro è anche abbastanza eccezionale e quindi hanno invaso i parchi e ignorato di fatto era prima del discorso della regina, precisiamo, vediamo se nel prossimo weekend succederà. Però Giulia, lo stesso. A questo punto, in questo caso ti chiedo, ci puoi ricordare effettivamente i divieti in Gran Bretagna che diciamo valenza dal punto di vista coercitivo hanno, non sono come da noi forse, no? No, di fatto nessuna, perché si è deciso appunto di non renderli coercitivi, sono dei veri e propri consigli, tant'è che la regina ha parlato di self-discipline, cioè di autodisciplina, non ha detto seguite le leggi e okay. La polizia comunque cerca di intervenire, però di fatto potenzialmente chiunque venga multato o che gli venga impedito per esempio di correre potrebbe teoricamente fare ricorso, perché appunto non c'è una norma di riferimento. Perfetto. Alcuni sindaci naturalmente stanno emanando delle ordinanze, ma sappiamo che insomma che caos poi implica tutto questa scarsa chiarezza in materia di quello che si può fare e quello che non si può fare, come hai detto tu. Vogliamo andare negli Stati Uniti? Sì, negli Stati Uniti infiammano le polemiche innanzitutto ancora su New York, perché il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo e il sindaco della città Bill de Blasio continuano a contestare quello che viene detto dall'amministrazione. Tra l'altro Trump continua a dire che i ventilatori ci sono ma lui non li può mandare tutti a New York e che comunque continua a avere questo lo riportano tutti i giornali, dei colloqui con aziende come General Motors, persino Tesla, e Andrew Cuomo, che è un uomo estremamente pratico, ieri ha ancora ricordato, guardate che i ventilatori non sono una cosa che dall'oggi al domani un'azienda che faceva automobili può produrre, e tra l'altro sono anche dei presidi tecnologici che hanno bisogno di tanti componenti, alcuni dei quali fanno parte di una filiera che in questo momento è interrotta, alcuni addirittura vengono dalla Cina, alcuni vengono dalla Russia per certi tipi di ventilatori. Quindi il fact checking di Andrew Cuomo è su tutti i giornali. Se volete però sentiamo Donald Trump sì. che ha fatto un briefing sabato, avrebbe dovuto farlo anche domenica ieri, che non l'ha fatto perché secondo voci hanno destato talmente tante critiche alcune delle parole dette sabato che gli hanno consigliato di saltare un giorno per calmare un po' gli animi anche del suo team interno. Sentiamo. And I say it, what do you have to lose? I'll say it again, what do you have to lose? Take it. I really think they should take it, but it's their choice and it's their doctor's choice or the doctors in the hospital. but hydroxy. Giulia, Lidl translation, perché non sì, abbiamo capito. Dice proprio anche con questo tono molto sottovoce, quasi calmo, come vorremmo che magari sì, ci trattassero sempre i medici. L'assicurante dice: ma prendetela questa medicina sperimentale, l'idrocloroxidina, che abbiamo sentito appena adesso sì, dire agli specialisti, calma, deve essere presa con molte precauzioni. Cosa avete da perdere? Prendetela. Capisci che un presidente di un paese di 300 milioni di abitanti con 10.000 morti in un giorno, fino adesso, e che tra l'altro una cifra che potrebbe arrivare a 300.000 in pochi giorni, che dice una cosa del genere, pare che Fauci sia andato su tutte le furie, Anthony Fauci, e appunto vediamo se oggi poi ci sarà un nuovo briefing. Il punto oppure no. Intanto ti volevo dire sì, come ultima curiosità, sì, dai giornali iraniani, che in Iran si sta già parlando di una fase 2 a partire dall'11 aprile, che insomma naturalmente sono giornali filo governativi che quindi vogliono rassicurare l'opinione pubblica. L'opinione pubblica, però non credo che si potrà fare, perché l'Iran, nonostante purtroppo sia uno di quei paesi sui quali non possiamo avere certezza dei dati, in realtà non è sicuramente un paese che può pensare di riaprire nel giro di pochi giorni. Giulia, giusto il titolo di Tagesspiegel mi ha colpito, giusto il titolo? Sì, moltissimo. Ci sono due foto, Joschka Fischer e Sigmar Gabriel, due ex ministri degli esteri, due ex vice cancellieri, che dicono: la Spagna e l'Italia sì, non ci perdonerebbero mai se in questo momento li lasciassimo in difficoltà, visto che sono in difficoltà più di noi. Domani c'è l'Eurogruppo, vediamo se questo titolo arriva. Grazie Giulia, ci risentiamo domani. Con te è tutto per Effetto Giorno. Andrea Roccabella in regia, Danilo Di Trani in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao da Alessio Maurizio.